25 anos. O último programa do Maceió. Almanac com filmes e filmes. Agora no Rana Reis. Agora no filme, em 20:55, na Saúde da Quantidade Notícia. E dopo la presentazione del programma del mondo, in chiusura una canzone. Loro in onda, bambini, è molto bello. A casa della star televisiva egiziana Zahira Mahmoud. Ma emesso dal titolo Supermarketing di Messi, ha pubblicato più di 20 artisti sul tema del consumismo. L'opera di Lewis, il sapone, è stata forse la più acuta, ardita e spiritosa dell'intera mostra. L'artista Alessandro Lewis è per me più ispirato dalla cultura pop, ma spesso ciò che espone porta con sé accattivanti curiosità di stupire. Secondo Lewis, questo famoso sapone di qualità ottima era tra i più reclamizzati più di 70 anni fa. Nel 1948, anche il suo, che si chiamava ancora Mabel Tsarouk, in onore dell'ultimo monarca egiziano. La cantante, tra i più importanti del mondo arabo, appariva sulle pagine delle riviste in un abito di pizzo bianco, tenendo in mano un fazzoletto di seta rosa. La sposa della settima Lewis, Emma Tosun, recitava la pubblicità. La cantante ha espresso il suo amore per quel sapone a lume d'oliva, dicendo che chi in lingua avesse usato non sapeva cosa si stava perdendo. Il prodotto ebbe anche il merito di rafforzare la fiducia di ogni consumo nel presente e futuro dell'industria egiziana. Sostenere le donne del Nord Africa per aiutare il processo di costruzione della democrazia in una regione. E questo è il senso della relazione presentata dall'Europa parlamentare del Partito Democratico, Silvia Costa, e approvata oggi a Strasburgo. Il documento fotografa il ruolo centrale rivestito dalle donne nella stagione di rivolte, la primavera araba, Libia, Tunisia, Marocco, ma avere partecipato attivamente alle contestazioni non garantisce alle nordafricane alcun diritto acquisito. Dopo le relazioni, si legge nella sintesi delle relazioni in questi paesi, ad eccezione della Libia, i partiti islamisti sono arrivati al potere, la questione dell'uguaglianza di genere è al centro del dibattito pubblico. Tra progressi e battute d'arresto, il risultato finale resta incerto. E qui può inserirsi l'azione dell'Unione Europea, che dispone di uno specifico budget di 92 milioni di euro per promuovere i diritti femminili nella regione. Con questo rapporto, ha dichiarato Costa, il Parlamento impegna l'Unione a sostenere il processo di transizione in corso, garantendo il pieno coinvolgimento delle donne nei luoghi decisionali, nei parlamenti, nella nuova strategia di partenariato euro-mediterraneo e quindi negli accordi bilaterali e regionali, alla luce del principio more for more, più sostegno per più democrazia. Interventi attivi, direttrici del programma di educazione del Cairo Institute of Human Rights Studies, sostenuto dal United Nations Democracy Fund. Il progetto è destinato a rafforzare gli attivisti e insegnare loro cosa si può fare a livello politico e prevede training per formare gruppi di pressione a livello locale nella città egiziana al di fuori del Cairo. La rivoluzione va portata avanti in tutto il paese, non soltanto a Tahrir. Formiamo tanti di loro e insegniamo loro come riferire gli abusi e violazioni, contattare le ONU e le organizzazioni umanitarie quali Human Rights Watch e Amnesty International. Abbiamo formato una grande rete di attivisti. La psichiatra e attivista gestione a Salitoma e a Roma per testimoniare della situazione femminile nel suo paese d'Egitto, a due anni dalla rivoluzione, nell'ambito di un incontro organizzato dall'eurodeputata del Partito Democratico Silvia Costa. Racconta ad Ansamen della sua attività che oggi svolge pro bono. Noi donne rimarremo in piazza, dice. Attualmente Toma è direttrice del programma di educazione del Cairo, Institute of Human Rights Studies, sostenuto dal United Nations Democracy Fund. Il progetto è destinato a rafforzare gli attivisti e insegnare loro cosa si può fare a livello politico, e prevede training per formare gruppi di pressione a livello locale nelle città egiziane al di fuori del Cairo. La rivoluzione va portata avanti in tutto il paese, non soltanto a Tahrir. Formiamo tanti di loro e insegniamo loro come riferire gli abusi e le violazioni, contattare le ONG e le organizzazioni umanitarie, quali Human Rights Watch e Amnesty International. Abbiamo formato una grande rete di attivisti. Ascoltato la metà della viola, programma curato da Nene Scheich. Cominciamo con un riassunto delle principali notizie. Presidente Morsi risponde ai giovani su Twitter. Primo ministro palestinese presenterà dimissioni. Ministri degli esteri del G8 attenuti per l'alto numero di morti in Siria. Presidente sudanese grazie a quattro esponenti dell'opposizione. Ed ora ecco le notizie in dettaglio. Il presidente Mohamed Morsi ha scelto oggi Twitter per rispondere alle domande dei giovani egiziani. Il capo dello Stato ha invitato i giovani ad avere ottimismo, affermando che il rilancio dell'economia spetta agli sforzi dei cittadini stessi e non alle assistenze straniere. Il presidente Morsi ha spiegato tra le varie cose per quale motivo abbia ritirato le querele della presidenza contro diversi giornalisti. Morsi ha spiegato di voler lasciare all'opinione pubblica di giudicare eventuali abusi. Quanto alla situazione nel paese, in particolare ai frequenti blackout di elettricità, Morsi ha annunciato di aver istituito un comitato ministeriale che lavorerà giorno e notte per impedire simili fenomeni nei prossimi mesi. Il Consiglio Consultivo ha approvato oggi due progetti di legge sul Parlamento sull'esercizio dei diritti politici. Il capo del Consiglio, Ahmad Fahmy, ha precisato che i due progetti saranno sottoposti alla Corte Costituzionale prima che vengano ratificati in modo definitivo. Il primo ministro ministri palestinesi Salman Fayyad presenterà le sue dimissioni al presidente Abu Mazen, che deciderà se accettarle al suo ritorno nel Qatar. Lo ha riferito un funzionario palestinese. Dietro la decisione ci sarebbero le crescenti divergenze tra i due su diverse questioni economiche e politiche. L'ultimo episodio riguarda le dimissioni del ministro delle finanze palestinese accettate da Fayyad contro il parere del presidente. Mentre la scorsa settimana il Consiglio rivoluzionario, il principale organo del governo di Fatah, il partito di Abbas, ha per la prima volta criticato apertamente la politica economica del governo di Fayyad. Il ministro degli esteri canadese John Bryant ha incontrato il ministro della giustizia israeliano Bibi nel suo ufficio in un quartiere arabo di Gerusalemme Est annessa da Israele. Un gesto che rompe con una consuetudine diplomatica ben consolidata che finora ha incontrato incontri ufficiali in questo settore della città proprio per non legittimare l'annessione israeliana, mai riconosciuta dalla comunità internazionale. Secondo una ONG israeliana interpellata dal quotidiano Haaretz, si tratta di un gesto deliberato con chiare finalità politiche. Baez è consapevole della delicatezza della questione e ha voluto creare un precedente, ha affermato la fonte. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco oggi ferendo un palestinese disabile mentre tentava di arrestarlo a Hebron in Cisgiordania. Lo hanno riferito un'associazione che si batte per la difesa dei diritti dei detenuti palestinesi e l'esercito israeliano. Mu'taz Abedi, 32 anni, è stato gravemente ferito dagli spari dell'esercito israeliano durante il suo arresto, ha riferito il club dei prigionieri in un comunicato. Il direttore dell'associazione, Amjad El-Mangar, ha detto che Mu'taz Abedi è un handicappato fisico, senza fornire altri dettagli. L'uomo è poi stato trasportato in un ospedale israeliano. Sono le 20:20 da Radio Cairo, state ascoltando il notiziario. È stato un massacro, secondo i comitati locali di coordinamento dell'opposizione, quello compiuto ieri nella provincia di Dara, nel sud della Siria, durante un'offensiva dell'esercito. I comitati di coordinamento locale parlano di almeno 62 vittime, la maggior parte del massacro nella cittadina di Sanamein. Dei combattimenti che si sono verificati in una sola giornata di ieri in tutto il paese, sono morte almeno 150 persone, secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. Sul piano politico, gli attivisti siriani dei comitati di coordinamento delle località in rivolta hanno espresso il loro rifiuto all'appello di Al-Qaeda di creare uno Stato islamico in Siria. Lo riferiscono gli stessi attivisti con un comunicato. La Siria dopo Assad sarà una repubblica basata sul principio di cittadinanza, sulla concessione delle libertà generali, sulle pari opportunità tra i cittadini. Precisano gli attivisti definendo ingerenze negli affari siriani l'appello di Al-Qaeda. Il ministro degli esteri del G8, riuniti oggi a Londra, si sono detti atterriti per l'alto numero di morti nel conflitto in Siria, che ha raggiunto oltre 70.000, secondo le Nazioni Unite. Nel comunicato finale, diffuso al termine della loro riunione, i ministri chiedono a tutti i paesi di estendere le richieste di aiuto delle Nazioni Unite per la Siria. I capi della diplomazia delle otto grandi potenze hanno inoltre condannato nei più forti termini la continua evoluzione del programma di armi nucleari e di missili balistici della Corea del Nord, in particolare l'arricchimento dell'uranio. I ministri hanno minacciato di nuove sanzioni il regime di Pyongyang. Quattro membri del Partito Popolare del Congresso all'opposizione sono stati liberati dopo aver trascorso più di 8 anni in prigione grazie a un'amnistia presidenziale. Lo ha riferito oggi il loro partito. Sono stati liberati oggi dopo 103 mesi in prigione, ha detto Kemal Omer, responsabile degli affari politici del partito. Tutto questo a Khartoum. Gruppi armati fuori controllo stanno diffondendo il caos nella Repubblica Centrafricana, lasciando la popolazione civile senza la risposta umanitaria di cui ha urgente bisogno. Le strutture di Medici Senza Frontiere, MSF, sono state saccheggiate e le squadre hanno subito rapine e minacce fin dall'inizio del conflitto. il nuovo governo Seleka deve assumersi le proprie responsabilità e ristabilire il controllo sui gruppi armati che operano in diverse zone del paese. Medici Senza Frontiere, l'unica organizzazione umanitaria che fornisce assistenza medica nelle città di Batangafo e Cabo. Questo significa che una popolazione di più di 130.000 persone non riceverà aiuto umanitario nei prossimi giorni o settimane. Il leader del gruppo radicale nigeriano Boko Haram ha respinto la protesta di un eventuale accordo di amnistia con il governo. Una settimana dopo il pagamento di Black Jonathan ha ordinato di redigere un rapporto sull'impatto di questa misura. In un messaggio audio ottenuto dalla France Press, Abu Bakr Shekau, indicato come presunto leader di Boko Haram, ha affermato che il suo gruppo non ha commesso nulla di male che meriti un'amnistia. Il 4 aprile scorso il presidente nigeriano ha creato un gruppo di esperti con il compito di valutare l'eventualità di concedere l'amnistia ai militanti, le cui violenze hanno causato oltre 3.000 morti nel nord e nel centro del paese dal 2009 a oggi. Un candidato di un partito laico, Mutahia Aumi Movement, alle elezioni politiche in programma nelle prossime in Pakistan, è stato ucciso oggi da uomini armati nel sud del paese. Lo ha annunciato la polizia. Fakhrul Islam è il primo candidato alle elezioni pakistane dell'11 maggio, assassinato dall'inizio della campagna elettorale nel mese scorso. L'omicidio non è stato rivendicato, ma il Tehrik e il Taliban Pakistan, movimento dei talebani pakistani, aveva recentemente minacciato di attaccare tre partiti laici, membri della coalizione uscente di Islamabad, tra cui l'MKM. Tre membri della polizia afghana, tra cui il comandante di un distretto, sono morti a causa dell'esplosione di un rudimentale ordigno nella provincia centrale di Uruzgan, lo scrive oggi l'agenzia di stampa Tajvok. La Corea del Nord ha più volte spostato un missile con l'obiettivo di confondere l'intelligence straniera prima del previsto lancio, e quanto riporta oggi l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, riferendo analisi fatte dall'intelligence secondo cui due missili a medio raggio di Masubam sono stati più volte spostati dentro e fuori il deposito sulla costa orientale, e allo stesso tempo almeno 5 mezzi di lancio sono stati visti in diverse zone di opposizione. Questi sono segnali del fatto che il nord potrebbe lanciare missili da Sudan in qualsiasi momento a breve, ha detto una fonte di intelligence dell'agenzia. Il conservatore moderato Hassan Rouhani, capo dei negoziatori iraniani per il nucleare all'inizio degli anni 2000, si è lanciato oggi nella corsa alle presidenziali il 14 giugno con l'ambizione di far uscire il paese dall'isolamento, ripristinando relazioni costruttive con il mondo. Rouhani, 64 anni, è stato segretario del Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale tra il 1989 e il 2005 sotto la presidenza del conservatore moderato Akbar Hashim Rafsanjani e del e questa era la nostra ultima notizia da Radio Cairo, vi abbiamo presentato il notiziario. Da Radio Cairo vi presentiamo proliferazione allarmante di armi chimiche nella regione. A due anni dalla crisi che ha fatto crollare la regina di Gheddafi, la Libia è all'origine di un'allarmante proliferazione di armi destinate a infoltire gli arsenali di gruppi estremisti e criminali nell'intera regione, a cominciare dalla Siria e dal Mali. E questa è la principale conclusione di un gruppo di esperti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, incaricato di monitorare l'embargo sulle armi imposto alla Libia durante la rivolta del 2011. I trasferimenti illeciti di armi leggere e pesanti, inclusi sistemi di difesa aerea, munizioni e ordigni di vario genere, rappresentano una violazione aperta dell'embargo e sono destinati verso un dozzino in paesi, sottolinea il documento pubblicato questa settimana. Pertanto le armi libiche vengono utilizzate nei conflitti aperti in Medio Oriente e Africa da forze non governative, inclusi gruppi terroristici, si legge. carichi di armi in partenza da Misurata e Bengasi raggiungono la Siria attraverso la Turchia e il nord del Libano. Un flusso significativo che fa pensare che le autorità locali possono essere al corrente su quanto accade, anche se non sarebbero direttamente coinvolte, precisano gli esperti ONU. L'altra rotta individuata porta le armi libiche verso l'Egitto, ancora instabile, a 2 anni dalla caduta del regime di Hosni Mubarak, in particolare a beneficio dei gruppi armati operativi del Sinai, regione desertica confinante con Israele, ma anche di quelli attivi nella striscia di Gaza. Guardando in direzione del Sahel, armi provenienti dalla Libia transitano verso il sud della Tunisia, dell'Algeria e nel nord del Niger per poi raggiungere il Mali, in preda a un conflitto che da gennaio 2012 mette a confronto movimenti ribelli tuareg e islamici al governo di Bamako. Ma secondo l'inchiesta ONU, queste armi e munizioni vengono anche utilizzate da reti criminali internazionali operative nel Sahel, nei traffici di droga e nel controllo delle strade. Pochi giorni fa lo stesso primo ministro libico Ali Zeidan ha dichiarato che la sicurezza nel paese è molto ridotta e ha riconosciuto che il paese vive in un periodo di grande vulnerabilità. Negli ultimi mesi le milizie armate libiche in lotta tra di loro per il controllo del territorio, sostituendo le forze di sicurezza carenti, si sono rese responsabili di attacchi e rapimenti ai danni di personalità politiche, istituzioni governative e diplomatiche. Il mese scorso, con una risoluzione approvata all'unanimità, il Consiglio di sicurezza si è detto preoccupato per la proliferazione illecita di armi e materiale militare nella regione e ha rinnovato per un anno il mandato della locale missione ONU. Pur avendo concesso al governo libico alcune facilitazioni nell'acquisto di materiale militare non letale destinato alle proprie forze di sicurezza, i 15 Stati membri si sono detti allarmati per le numerose denunce di torture, detenzioni arbitrarie e le esecuzioni extragiudiziarie che giungono dalle prigioni libiche. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Spotlight, un programma a cura di Amal Shahid, presentato per voi stasera da Marco Alloni. Carissimi amici, buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione di questo programma settimanale in cui vi presentiamo la quinta e l'ultima parte della telefonata fatta dal sottoscritto Marco Alloni con il gentile ascoltatore Giovanni Garbellotto. Ascoltiamo insieme. Certo, canta un posto più lontano dove lei è riuscita a sintonizzarsi? Nuova Zelanda, però ero al mare. Mare sa cosa significa? A livello di Venezia, lungo la costa di... Sì, ma non capisco perché il mare qui c'è una migliore ricezione? Eccetera, bisogna... l'antenna, una banale antenna al tiro alta 10 metri che si chiama canna da pesca in gerro. Sì. Non è il dipolo marconiano, calibrato, sì, non hanno spazio, avrei troppa voglia di farle, però quando il lavoro non sono qui, nel mio studio a casa, se sono in vacanza sì. Sì. Allora lì ci lavora molto meglio, sì, anche di notte, meglio notte, l'estate si sta bene, no? Assolutamente. Senti, una domanda che ho fatto anche ai suoi, chiamiamoli colleghi, radio. Come comincia una passione di questo genere? Mi scusi, quando comincia? Come comincia? Quando comincia? Qual è la molla scatenante? Beh, ci sono degli elementi naturali e personali, no? Dovuti che ciò, quando ero un ragazzo, l'unico elemento di informazione era una radio, per la storia si chiamava Telefunken 421, fabbricata in Italia, dalla MOLA, perché è l'acronimo di officine lombarde, apparecchiature di precisione, era della City, che è un'antichissima fabbrica milanese, siamo nel 1920 più o meno, quando facevano queste robe, la radio che quali lo ascoltavo, quindi di passione da bambino, poi si gira per le fiere, si gira qua e là e comincia a fare che, a serata si trovano degli amici che ti tirano dentro, ti viene, da una cosa nasce l'altra, per dire meno si decide di spendere un paio, una sommetta per comprarci l'apparecchio, e eccetera, eccetera. Da studente, quando ero studente, mi facevo gli adattamenti degli apparecchi, non so se lei sa, tipo ascolto con la cuffia dall'altoparlante, come hai visto, del settore che adesso non so se ci sono ancora, si chiamava CQ elettronica per esempio, in Bologna. Quindi, ma lei vive da solo o vive in famiglia? Beh, io sono nonno. E nonno, ma vive ancora con sua moglie, vive con dei figli? Sì, io ho una moglie sola, non ne ho due o tre come si usa nell'ambiente iraniano. No, ma anche qui è molto raro avere due o tre mogli. Comunque la sua moglie non si sente trascurata dalla radio? No, anzi, mi piace assolutamente, perché ognuno ha i propri hobby, i propri interessi, quindi la radio è una cosa che deve sapere, che lei, ma come pare, sì. 7-8 anni fa una sua collega si chiamava Concetta, non so se ne ha mai sentito. Sì, certo, l'ho conosciuta. Mi ha chiamato mentre ero all'ora di cena per farmi gli auguri di buon compleanno. Che per lei sappia che è domani. E allora dobbiamo richiamarla anche domani per fare. No, perché allora era il giorno del disestile, 29 febbraio. Ah, ecco. Adesso invece non siamo di gestire, quindi il 28 febbraio. Allora le faccio gli auguri per domani. Sento un'ultimissima domanda, sta cercando di tramandare questa sua passione anche ai nipoti? Ha toccato un tasto che non so. Vabbè, il nipote ha 5 anni e ne ha uno solo, e quindi non so dire, ma perché ti riguarda mio figlio? Che vive un po' nel mondo, lui era a Londra, eccetera, si faceva ingegnere anche lui, come sono io, ma io con Facchetta non mi interessa nulla dell'analogico, solo digitale. Radio Cairo, lo abbiamo presentato, pronto qui Radio Cairo, un programma a cura di Marco Lino, presentato per voi stasera da Marco Lino. Da Radio Cairo vi presentiamo cari ascoltatori, benvenuti all'ascolto di questa nuova edizione del vostro programma, nel quale faremo un nuovo tour nella vita artistica e culturale dell'Egitto. Nella puntata odierna parleremo dei seguenti argomenti. La Biblioteca Alessandrina ospita la conferenza internazionale della Federazione degli Editori Arabi. Il Ministero degli Esteri Egiziano celebra i francofoni. Il Cairo ospita il forum dei poeti arabi sulle poesie della rivoluzione. Serate culturali a Piazza Arabi ad Ismailia. Cari ascoltatori, la Biblioteca Alessandrina ha ospitato la seconda conferenza internazionale della Federazione degli Editori Arabi, che si è svolta con il titolo di Facilitare le conoscenze e le sfide delle pubblicazioni arabe. La conferenza ha elogiato il ruolo egiziano nelle pubblicazioni arabe. È noto che questo ruolo risale alla metà del XIX secolo. L'editoria non è solo un'attività culturale, ma anche un'importante industria. La conferenza tratta diversi argomenti, tra cui gli ostacoli alle pubblicazioni, i diritti d'autore, i libri digitali e tradizionali. Il Consiglio della Federazione degli Editori Arabi prende parte a questa conferenza, oltre a diversi ministri arabi della cultura, così come scrittori, intellettuali, uomini di letteratura ed esperti nel design dei libri e delle pubblicazioni. I temi principali della conferenza sono i mezzi di comunicazione e la realizzazione della conoscenza, le biblioteche pubbliche e il progresso dell'industria del libro, il futuro della pubblicazione digitale e le reti di vendita, lo sviluppo delle fiere del libro arabo, la libertà di pubblicazione, i diritti d'autore e la pirateria e la problematica della traduzione. Ministero degli Affari Esteri ha celebrato i francofoni nel quadro delle celebrazioni internazionali. Queste celebrazioni sottolineano il ruolo pionieristico dell'Egitto. Inoltre, 15 studenti delle scuole francofone in Egitto sono stati premiati. Le celebrazioni includevano teatro e spettacoli folcloristici che esprimevano il patrimonio africano, oltre alla sfilata di moda di 14 paesi africani. Cari ascoltatori, un gran numero di poeti, critici e ricercatori hanno partecipato al terzo forum internazionale del Cairo per la poesia araba. Questo forum si è svolto con il titolo di Poesia di Primavera, la rivoluzione di primavera. Il forum ha discusso diversi argomenti, tra cui poesia della rivoluzione, straniamento e aspirazioni. Salah Jahin sostiene la rivoluzione, protesta e rivoluzione nella poesia contemporanea egiziana, la poesia delle donne continua la rivoluzione e arti contro ideologia. Il forum, durato 4 giorni presso la sede del Consiglio Supremo della Cultura, ha anche discusso il contributo del gruppo poetico di Apollo nella poesia araba moderna. Organizzazioni sociali organizzano serate di cultura e poesia nel giardino Radio Ismailia, sotto il patrocinio del governatore di Ismailia. Queste serate si svolgono sotto il nome di Mascaba, la terrazza. Ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa edizione. Fino a quando ci incontreremo di nuovo la prossima settimana, vi auguriamo tutto il meglio. Vi abbiamo presentato Panorama Artistico, programma curato da Heba Rashid, la tecnica Tawhida Mohamed, presentatovi da Antonello Bocchini. Radio Cairo vi presenta Carissimi amici, buonasera e ben ritrovati al nostro giro giornalistico nella stampa italiana. Sotto il titolo Dalle battaglie di Nimbi all'Egitto, Agi ha pubblicato questa intervista di cui leggiamo. Simonetta Gabrielli, classe 1959, è stata nella lunga delle associazioni una delle più note e appassionate protagoniste della lunga battaglia contro l'inceneritore in Trentino. Ha fondato e animato insieme ad Adriano Rizzoli e altri la combattiva associazione Nimbi Trentino. Adesso, dopo aver studiato l'arabo, si trova in Egitto per un lungo periodo di volontariato e mette a frutto le sue competenze artistiche. Ha studiato all'Istituto d'Arte. Insegna ai bambini a costruire marionette, fare teatro usando la testa e con questo molto di più. Scrive un blog personale dove raccoglie riflessioni, video e foto sul paese che la ospita, sulla pace, sulla democrazia, sui valori. Le abbiamo chiesto un punto di vista dalla sua nuova prospettiva esistenziale, diverso da quello che abbiamo letto spesso sul tema rifiuti. La voglia di cambiare il mondo resta in lei, quella di sempre. Proseguiremo la lettura. Cosa l'ha portata in Egitto? La scelta di venire al Cairo a trascorrere 6 mesi della mia vita è stata guidata da una serie di coincidenze, ma contiene in sé un significato profondo che col tempo si disvela. I lunghi anni dedicati all'opposizione all'inceneritore e all'approfondimento sulla gestione dei rifiuti mi hanno proiettato in un mondo politico che mi ha ferita e delusa. Qui è nata la necessità di vivere un altro tipo di volontariato che, oltre a dare, fosse un nutrimento per la mia anima, perché stare nei giochi della politica produce una lenta agonia dello spirito. Ed eccomi qui nel mezzo di questa strana rivoluzione che si svolge tra Piazza Tahrir e Heliopolis, sede del Palazzo Presidenziale, a costruire un percorso di rivoluzione culturale e creativa con gli orfani dello Sheraton, sede di attività benefiche della locale chiesa. Concluderemo con questa domanda. Come ha trovato il paese, la gente, cosa dice della nuova costituzione, di Morsi e del futuro? Per quanto ho potuto vedere, l'Egitto è un paese pieno di possibilità da molti punti di vista, ma è come se gli egiziani, vittime dei rigidi dogmi delle diverse religioni che li tengono impegnati nello scontro, non riescano a liberare le energie creative e produttive. Oggi la maggioranza è contraria alla costituzione e a Morsi. Radio Caro, vi abbiamo presentato prima pagina a cura di Attesana Del Maghi e presentato da Antonello Bocchini. Thank you. punto di... Almanacco turistico. Un programma a cura di Genetria. Amici di Radio Cairo, buonasera. Una mostra dedicata all'Egitto, con la ricostruzione in grandezza reale di una delle tombe più belle della necropoli di Dera e Medina, quella di Tashebu, un artista di età ranocchiva. È stata inaugurata sabato 9 marzo 2013 alle ore 11 e sarà visitabile fino a domenica 9 giugno 2013 presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Udo. La ricostruzione realizzata da Gianni Nero sul suo progetto consta di una struttura di circa 10 metri quadrati che ospita la camera sepolcrale e lo stretto corridoio di accesso, sulle cui pareti è magnificamente conservata la decorazione pittorica. Il ciclo decorativo ricostruito con una tecnica brevettata che garantisce la riproduzione in ogni più piccolo dettaglio, lascia senza fiato. Il racconto delle immagini si unisce alla meraviglia dei colori in una visita che promette un'esperienza unica ed emozionante. La mostra è arricchita anche da una scelta di reperti di ambito egizio conservati presso il museo, come Amon in ombra con la raffigurazione di Arpocrate, di Aspri con immagini di Anubi, busti di Serapide, iscrizioni dedicatorie a Iside e altri oggetti che ben rappresentano il forte legame di Aquileia con il mondo dell'antico Egitto attraverso tutta l'epoca imperiale. L'esposizione che darà ampio spazio alla didattica, curata da studio Bert Friuli, si ricollega al progetto Egitto Veneto, elaborato e realizzato dalla professoressa Paola Zanovello dall'Università degli Studi di Padova e dal professore Emanuele Ciampini dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie ad esso si è inteso valorizzare con una serie di iniziative, ricerche d'archivio e nelle collezioni dei musei del Veneto, mostre, convegni e conferenze, la presenza in area alto-adriatica di elementi riferibili alla realtà sociale, religiosa e culturale egiziana. In sintesi dei risultati di queste ricerche verrà presentata nell'ambito della mostra attraverso una serie di pannelli didattici. Dera el Medina è un villaggio dell'Egitto nella regione di Tebe, costruito all'inizio della 18ª dinastia per ospitare gli operai addetti alle necropoli regali. Era situato in una vallata del deserto occidentale ed essendo stato abbandonato all'inizio della 21ª dinastia, col cessare dei lavori è pervenuto quasi intatto fino allo soggiorno. L'interesse del villaggio, che lo rende unico nel suo genere, è nell'averci conservato le testimonianze anche più minute della vita degli operai egiziani durante il lungo regno attraverso pitture, oggetti di uso quotidiano, papiri e soprattutto ostraca, frammenti di calcare e di concio, scritti con la notazione di ciò che avveniva giorno per giorno, dagli approvvigionamenti di cibo e strumenti di lavoro alle luci domestiche, dalle assenze ai piccoli furti. Tali documenti gettano luce anche su alcuni avvenimenti storici, spesso celati nei resoconti ufficiali, come la notizia della perdita di giornate lavorative a causa di incursioni dei libici. Nella zona hanno scavato